Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. Presento subito l'ospite di questa sera, che è il professor Ennio Macchi del Politecnico di Milano, esperto di conversione energetica. Buonasera Macchi. Buonasera. Dunque, con il professor Macchi abbiamo affrontato settimana scorsa il tema della cogenerazione e della trigenerazione, il tutto da un punto di vista abbastanza generale. Quello che vogliamo fare stasera è entrare un po' più nel dettaglio delle possibilità offerte dalla cogenerazione, che, lo ricordiamo, è una procedura grazie alla quale si brucia un combustibile per produrre elettricità e si usa, per così dire, il calore di scarto che questo processo genera per produrre acqua calda. Acqua calda che può servire per i più diversi utilizzi, per riscaldare la casa, ma anche per processi industriali. La cogenerazione è un processo, abbiamo detto anche questo, che si può applicare su tutte le scale, dalla centrale termoelettrica in giù. Noi oggi ci concentreremo sulla cosiddetta microcogenerazione. Dunque Macchi, le chiedo subito quindi di spiegarci quali sono i casi in cui si parla di microcogenerazione. Ma dunque, la definizione europea di microcogenerazione è impianti di cogenerazione che abbiano una taglia elettrica sotto i 50 kW, che è una taglia tipica, diciamo, che può essere utilizzata in abitazioni dal monofamiliare al condominio di medie dimensioni o nella piccola media industria o nel terziario. Qui il caso, diciamo, a differenza della centrale termoelettrica in cui lo scopo principale è produrre energia elettrica e quindi si cogenera calore, qui è un po' il contrario. Cioè si parte da un bisogno di calore, per esempio di acqua sanitaria, e si tira fuori l'energia elettrica che si può. È corretto, nel senso che la microcogenerazione sta in piedi solo se si recupera integralmente il calore, perché il rendimento elettrico di motori piccoli è minore di quello delle grandi centrali, quindi ha senso solo se si riesce a recuperare davvero tutto il calore, cosa che si può ovviamente fare. Ecco, quali sono quindi le tipologie di microcogenerazioni, quali sono le tecnologie che vengono utilizzate? Dunque, è un settore ancora in fase evolutiva, diciamo, siamo agli albori della microcogenerazione. Ad oggi i due motori più utilizzati sono i motori a combustione interna, simili a quelli delle automobili, e le microturbine a gas. Queste sono le due tecnologie già commerciali e provate. Poi ci sono molte tecnologie avanzate che sono a livello di prototipo, diciamo, come le celle a combustibile e i cicli Stirling, applicazioni particolari che non sono ancora oggi mature. Di che potenze stiamo parlando? Mi sembra, per esempio, restando, diciamo, sul motore a scoppio, sulla microturbina, che sono, abbiamo detto, i casi comunque di gran lunga più... Per le microturbine hanno delle taglie che vanno da circa 25 kW elettrici a circa 200 kW elettrici. Questo però è il campo di applicazione delle... Siamo nel campo industriale. No, 25 kW è microcogenerazione. Sì, sì. Certo. No, di 200 forse... 200 è già un po' oltre la microcogenerazione, piccola industria, diciamo. Ecco, e i motori vanno da taglie micro molto piccole, cioè da un kilowatt fino a taglie grandi a piacere, diciamo. Quindi coprono tutto il settore della microcogenerazione. Quali sono i contesti di applicazione tipici? Abbiamo detto condomini? Sono condomini, sono terziario, quindi palazzi uffici, piccoli ospedali, centri commerciali, supermercati, ci sono moltissime possibilità applicative nel settore della microcogenerazione. Ecco, invece sulla singola villetta, se non sbaglio, c'è proprio un problema di taglia, ma in qualche modo l'ha detto lei prima. Beh, il problema è che ci vuole un motore che costi poco, che sia affidabile, che sia prodotto su larga scala per avere dei costi ragionevoli, che abbia un sistema di manutenzione e di assistenza adeguato. Quindi è un mercato che sta nascendo, ma non è ancora oggi maturo. Ecco, lei ha parlato di manutenzione. Quanta ne richiedono questi sistemi? Molta? No, ne devono per definizione richiedere poco, cioè è impensabile che un microcogeneratore possa avere successo e richieda più di una manutenzione all'anno, una revisione all'anno. Qual è il tempo di payback, quindi il tempo in cui si rientra dell'esborso dovuto all'acquisto di un cogeneratore? E in che circostanza conviene pensare a un cogeneratore? Quando si sostituisce la caldaia? In genere la caldaia rimane perché non si può pensare che se il motore si rompe si rimanga al freddo. Poi il motore viene dimensionato per una taglia che non è la punta del calore, mm-hmm. ma il calore utilizzato mediamente durante la stagione di riscaldamento. Quindi la caldaia affianca, diciamo, il microgeneratore. Il payback può essere di qualche anno, deve essere, diciamo, sostanzialmente di qualche anno. Comunque ci sono delle tariffe incentivanti. Ci sono delle situazioni incentivanti a favore della microgenerazione che è ritenuta cogenerazione ad alto rendimento. Bene, grazie al professor Macchi. Se per caso qualcuno pensasse di buttarsi in questo business della microcogenerazione, segnaliamo che proprio al Politecnico di Milano è stato attivato un nuovo laboratorio sulla microcogenerazione attrezzato per tutte le operazioni di misurazione per sistemi da 1 a 100 kW e quindi in grado di supportare lo sviluppo anche di nuove tecnologie. Vi invito come sempre a scriverci a mrkilowatt@radio24.it. Noi ci risentiamo domani, parleremo di giardini pensili.